Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 186 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di medicina, di statistica, ma soprattutto di tubercolosi. La tubercolosi è una malattia piuttosto infida. Si genera a causa di un batterio chiamato Mycobacterium tuberculosis ed è, al contrario di quello che possiamo pensare, una delle malattie più infide che esistano sulla Terra. Si calcola infatti che almeno un terzo della popolazione mondiale sia affetta da tubercolosi. Per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel tempo passato ha indetto un'intera campagna di prevenzione contro la tubercolosi. Ovviamente la tubercolosi è una malattia curabile, molto curabile, ovviamente se c'è una adeguata attenzione. Attenzione che manca ovviamente dove ci sono gli ultimi e dove sono gli ultimi più ultimi se non sono nelle carceri. È un paper che si occupa di questo problema, cioè dell'incidenza della tubercolosi proprio in prigione, nelle carceri, intitolato Tuberculosis Incidence in Prisons, a Systematic Review. Il primo autore è il dottor Jacopo Bossano, ricercatore presso l'Università del Piemonte Orientale e collaboratore alla Scuola di Salute Pubblica dell'Imperial College of London, e questo paper è stato pubblicato appunto su PLOS Medicine. Buongiorno Jacopo. Buongiorno. Jacopo, con te parleremo di questo paper e cercheremo di capire, come nostro solito nella prima parte, effettivamente che cos'è la tubercolosi, ma all'inizio abbiamo le classiche 100 parole iniziali con cui introdurre Caccia al Fotone. Quindi ti lascio la parola per introdurre il contenuto di questo paper che poi andremo a spulciare meglio nella seconda parte della trasmissione. A te la parola. Sì, allora, la tubercolosi è una delle 10 cause di morbidità, cioè di malattia e di mortalità più importanti nel mondo, un peso dal punto di vista socio-economico gigantesco, e esistono alcune sedi all'interno della società in cui circola più facilmente e sono sostanzialmente, pongono a rischio poi tutta la collettività. Una di queste sono le carceri. E quindi è necessario cercare di capire qual è il rischio di infezione tubercolare, di malattia tubercolare una volta che si è in carcere. Questa ricerca va a questo scopo, è stata condotta in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha spinto per avere questo tipo di ricerca, e abbiamo trovato che in effetti nelle carceri il rischio mediano, cioè sostanzialmente il rischio che si può riscontrare in quasi tutte le carceri, è di avere almeno 25 volte il rischio che si ha nella popolazione generale di trasmissione. Sono quindi sono potenzialmente delle sedi da cui può irradiare la tubercolosi, può irradiare la collettività. Questo dovrebbe spingere a un controllo della tubercolosi nelle carceri e a un'osservazione, diciamo, cosa succede nelle carceri. Jacopo, ti ringrazio per la sintesi. A questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Come già detto, cercheremo di esplorare l'infezione tubercolare nella prima parte della trasmissione. Nella seconda parte della trasmissione cercheremo di capire quali sono i dati a cui siete arrivati attraverso questo studio molto molto interessante. A dopo. Al mio segnale scatenate l'inferno. Stop Me dei Plug and Play. Questo è il primo pezzo musicale che abbiamo scelto nella 186esima puntata di Cacciafotone, in cui ci stiamo occupando non tanto di scienza ma piuttosto di società. Ce ne stiamo occupando col dottor Jacopo Bossano, ricercatore presso l'Università del Piemonte Orientale e collaboratore alla Scuola di Salute Pubblica dell'Imperial College of London e primo autore di un paper pubblicato qualche mese fa su PLOS Medicine intitolato Tuberculosis Incidence in Prisons, a Systematic Review. In pratica, all'interno di questo paper si cerca di capire in che modo aumenta l'incidenza della tubercolosi proprio in zone trasandate e trascurate come la prigione. È un argomento che ci interessa tutti, non pensiate, ed è un argomento su cui si sta centrando moltissimo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nella prima parte di Cacciafotone cercheremo di capire almeno i confini all'interno dei quali ci muoveremo. E allora la prima domanda che ti faccio, Jacopo, è quella che ti aspetteresti, cioè che cos'è la tubercolosi e soprattutto quali sono le cause che la generano? Allora, la tubercolosi è un'infezione batterica che sostanzialmente convive da sempre con l'essere umano. È un'infezione che tendenzialmente colpisce i polmoni, ma in realtà soprattutto nei bambini, nei soggetti defedati, può colpire anche altre sedi, può dare una meningite, può dare figure disseminate di tubercolosi, le ossa e via dicendo. L'aspetto importante della tubercolosi è la sua diffusione. Si pensi che l'infezione tubercolare, che è diversa dalla malattia tubercolare, la fase preliminare e non è in sé una malattia, sembra che siano affetti da questa infezione circa un terzo dell'umanità, quindi 2 miliardi di persone. Questo dà origine a sostanzialmente circa 9 milioni e mezzo nuovi di casi al mondo all'anno. Nel 2009 sono stati registrati 9 milioni e mezzo di casi nuovi. 14 milioni di persone vivono con la tubercolosi in questo momento e muoiono sostanzialmente 1,3 milioni di persone all'anno. Il paradosso è che la tubercolosi incidenza, cioè la quantità di nuovi casi tubercolosi per 100.000 abitanti, si sta riducendo in realtà, ma siccome sta aumentando in modo drammatico la popolazione mondiale, non si è mai avuta così tanta tubercolosi sulla faccia della terra quanta se ne ha in questo momento. Nei paesi industrializzati non si è mai avuto invece così poca tubercolosi come adesso, quindi siamo in una sorta di paradosso della salute globale, come viene chiamata oggi. Nei paesi in via di sviluppo ci si occupa della tubercolosi perché è una piaga e perché combinata con l'infezione da HIV sostanzialmente il suo potere letale si è potenziato enormemente dalla fine degli anni 80 ad oggi. Nei paesi industrializzati ce ne si occupa perché attraverso fenomeni migratori e legato al fatto che si è abbassata la guardia dagli anni 90 in poi, la tubercolosi è ripresa e soprattutto è ripresa in aree urbane. Londra ha una concentrazione di tubercolosi pari a quella in certe aree, pari a quella che si trova in Somalia. In generale tutte le aree urbane hanno un maggior rischio di tubercolosi perché è una patologia associata alla povertà e alla mancanza di accesso alle strutture sanitarie. L'Italia è messa abbastanza bene, nel senso che abbiamo circa 6-7 casi ogni 100.000 abitanti, se andiamo in paesi come non so, la Nigeria o la Somalia se ne hanno 250 per 100.000 abitanti. L'altro punto importante della tubercolosi è che è facilmente controllabile ed è una delle malattie per cui il rapporto tra costo del controllo e della terapia e l'efficacia dell'intervento sono più fruttiferi, cioè la possibilità di controllare il paziente, la possibilità di trattarlo in particolare con una strategia che si chiama DOTS, che vuol dire terapia osservata direttamente dall'operatore sanitario, abbassano enormemente i costi del trattamento e alzano enormemente la probabilità di guarirla. Ma dal punto di vista della storia, in che modo questa malattia si è evoluta, in che modo conosciamo oggi meglio la tubercolosi di quanto la conoscevamo nel passato? Per quanto riguarda la sua storia naturale, la tubercolosi si può definire, diciamo, suddividere in due momenti. Il primo momento è quello dell'infezione tubercolare, come dicevo prima, circa un terzo della popolazione umana infetta da malattia da bacillo tubercolare, il che non vuol dire che è malata e né che si ammalerà. Però questo bacillo ha la caratteristica che nel momento in cui le difese immunitarie tendono a ridurre la loro efficienza, la malattia può venire fuori, può manifestarsi. Questo può succedere o con un'immunocompromissione, per esempio dovuta ad HIV, o con un invecchiamento, o con lo sviluppo di tumori, per esempio terapie antitumorali che abbassano la difesa immunitaria, oppure cosa che sta succedendo nei paesi in transizione, con lo sviluppo del diabete. Ora, pare che in Cina e in India il diabete stia sostanzialmente aumentando in maniera impressionante, c'è un'epidemia di diabete, combinata con l'epidemia tubercolare, ne fa sì che fa pensare, ci sono delle previsioni che fanno pensare che ci sarà un incremento dell'epidemia tubercolare nelle persone quando invecchieranno, il diabete si manifesterà e queste persone svilupperanno tubercolosi. La tubercolosi come malattia è contagiosa, a questo punto va tenuta sotto controllo, se no come ogni malattia infettiva può diventare epidemica. Jacopo, come sono cambiate le cure di questa malattia nel corso del tempo? Dunque le cure in realtà negli ultimi, se vogliamo, 15-20 anni sostanzialmente non sono cambiate molto, nel senso che se abbiamo una tubercolosi non resistente, quindi sensibile a tutti gli antibiotici, esistono dei cocktail di antibiotici che devono essere presi per periodi relativamente lunghi, si parla di almeno 6 mesi, si può arrivare anche a un anno e mezzo, che sostanzialmente sono efficaci. Il problema è che se questi farmaci non vengono assunti in modo regolare, in modo controllato, insomma, se non si è molto attenti alla somministrazione, all'assunzione del farmaco, si possono sviluppare delle resistenze a questi antibiotici ed è quello che è successo in diverse aree, segnatamente nell'est europeo, paesi dell'ex Unione Sovietica e in certe aree anche dell'Africa, in Iran anche è successo questo, si sviluppano dei ceppi che sono antibiotico resistenti. Ora questo sta diventando un problema potenzialmente molto molto pericoloso, cui gli osservatori stanno molto attenti, perché per lottare invece contro questi microrganismi resistenti ai farmaci, in particolare il multidrug resistant, cioè resistente a più farmaci, e l'extremely drug resistant, cioè resistente a quasi tutti i farmaci, esistono poche alternative e questo è un problema, diciamo, di patologie, vengono considerate patologie neglette, per le quali sostanzialmente la ricerca non investe abbastanza, essenzialmente perché la stragrande maggioranza di malati sono in paesi che non si possono permettere le cure, quindi non è remunerativo investire su questi farmaci. Esiste un vaccino, che è forse il più antico vaccino in uso al momento, che però non risponde, diciamo, alle necessità che si hanno in termini di salute pubblica, protegge i bambini da meningiti e da sepsi, quindi ne riduce la mortalità infantile, ma sostanzialmente non ha un impatto epidemiologico a livello di adulti e di trasmissione. Si stanno studiando dei vaccini, ma siamo ancora abbastanza lontani dalla loro commercializzazione. Jacopo, a questo punto ci andiamo ad ascoltare il secondo pezzo musicale, poi torniamo in studio e quando torneremo in studio entreremo davvero nell'argomento della trasmissione, cioè nell'analisi di questo paper pubblicato qualche mese fa su PLOS Medicine. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. can be so lips, white teeth are made of jelly, and your tongue is made of cutting out. What would frogs say if you're kissing on brain? You are too shy, try to fuck somebody tonight. What would frogs say if you're kissing on brain? E bentornati in studio, cari ascoltatori, in questa puntata di Cacciafotone, nella 186esima puntata di Cacciafotone, in cui ci stiamo occupando di tubercolosi. Non ce ne stiamo occupando dal punto di vista medico, ma stiamo cercando di analizzare un paper pubblicato qualche giorno fa, anzi a dicembre, su PLOS Medicine, intitolato Tuberculosis Incidence in Prisons, a Systematic Review. Di questo paper il primo autore è il dottor Jacopo Bossano, ricercatore presso l'Università del Piemonte Orientale e collaboratore presso la Scuola di Salute Pubblica dell'Imperial College of London, che all'interno di questo paper ha cercato di capire in che modo aumenta l'incidenza dei malati di tubercolosi proprio in zone come la prigione. È uno studio voluto fortemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Jacopo, trattandolo con un occhio molto cinico, quanto possono essere utili studi di popolazione come questo per cercare di diminuire nel totale i malati di tubercolosi? Allora, il fatto, per ogni malattia infettiva in realtà la distribuzione nella popolazione tendenzialmente non è omogenea, soprattutto se la malattia infettiva è di lunga durata. L'esempio classico sono le infezioni sessualmente trasmesse, è ovvio che per ragioni di età e per ragioni anche di attitudini personali non tutte le persone sono a rischio nello stesso modo di un'infezione sessualmente trasmessa. Questo accade anche per la tubercolosi non colpisce in maniera omogenea la popolazione, questo succede più frequentemente con infezioni come l'influenza, anche se non è particolarmente vero, però diciamo il rischio è più equamente distribuito, mentre patologie o infezioni come la tubercolosi sono distribuite in modo diverso. Allora, esistono delle aree a altissimo rischio, l'ho detto prima, una delle più importanti e ha un impatto enorme, anche se la gente non se ne rende conto, è la trasmissione a livello degli operatori sanitari, perché essenzialmente sono i primi che vengono in contatto con un'infezione dalle vie respiratorie, non si sa ancora che è una tubercolosi e quindi rischiano di prendersela. Un esempio classico, anche se non è legato alla tubercolosi, viene dall'epidemia che c'è stata di SARS. Il prezzo più alto è stato pagato dai sanitari, perché quando uno stava male, andava in ospedale, non si sapeva che era SARS e avveniva il contagio. Questo è importante in paesi in via di sviluppo in cui le risorse per la sanità sono già bassissime, magari gli operatori sanitari per qualche motivo sono sieropositivi, il fatto di infettarsi sostanzialmente rischia di condannarli a morte. Un'altra sede molto importante, un'altra popolazione che ha alto rischio è quella delle carceri. Perché? Perché si vive, allora innanzitutto spesso chi va in carcere è più emarginato di chi non ci va nella società, la tubercolosi è un'infezione legata all'emarginazione. Spesso chi finisce in carcere ha meno cura o ha possibilità di avere meno cura della propria salute di chi non ci finisce, e poi quando si è in carcere le condizioni di vita sono tali per cui sia la nutrizione più bassa, sia gli ambienti e i cambi di aria sono molto più, gli ambienti sono più costretti, i cambi di aria sono più rari, e questo aumenta il rischio di trasmissione. Paradossalmente, dal punto di vista puramente, diciamo, di salute pubblica, se un soggetto una volta entrato in carcere ci restasse per sempre, non sarebbe un grosso problema dal punto di vista della tubercolosi, perché una volta acquisita resta in quella sede. In realtà il problema è che c'è una grossa diciamo oscillazione, per moltissima gente entra in carcere, ci resta da poco tempo e poi esce oppure incontra dei parenti e questi trasmettono l'infezione fuori. Allora la domanda che ci si poneva era: si sa che la tubercolosi è alta per studi aneddotici, ma non è mai stata misurata, diciamo, in modo globale. cioè diversi studi sono stati raffrontati uno all'altro e non si è mai cercato di capire quale potesse essere l'impatto a livello di società. Capire questo è importante perché se passa il messaggio che le carceri sono un possibile serbatoio di tubercolosi, è possibile che i governi o le autorità competenti consentano di studiare bene e accuratamente la trasmissione della tubercolosi nelle carceri e eventualmente di inserire dei sistemi di prevenzione e controllo della tubercolosi all'interno dei carceri, cosa che non succede quasi mai, in quasi nessun paese questo è sviluppato, implementato in modo sistematico. Questo è il motivo per cui lo studio è stato fatto. Jacopo, la domanda prima te l'ho fatta perché mi sembra un po' che, come dicevamo prima, si vive una specie di paradosso, però un paradosso all'interno di un paradosso, un universo all'interno di un universo. Nei paesi industrializzati la tubercolosi è molto bassa, eppure nelle prigioni che sono all'interno dei paesi industrializzati l'incidenza della tubercolosi è pari ai paesi del terzo mondo. È veramente una cosa assolutamente assurda. La domanda che ti voglio fare ora è questa: in che modo avete scelto i dati su cui lavorare? Perché la scelta dei dati in letteratura scientifica è assolutamente fondamentale. Sì, è essenziale. Tra l'altro questo è un articolo cosiddetto peer reviewed, cioè dove dei pari anonimi, almeno fino alla fine del procedimento, del processo di selezione dell'articolo, è stato proprio un articolo peer reviewed, viene valutato da dei pari anonimi e per essere accettato deve superare certi step. Una delle domande essenziali che ci è stata chiesta è proprio quella: che fonti avete usato? E ci siamo dovuti confrontare sulle fonti. Abbiamo deciso di usare sostanzialmente dei motori di ricerca dedicati alla letteratura medica. Nella fattispecie ne abbiamo scelti tre globali, cioè Medline, Embase e Web of Knowledge, che sono per gli esperti fonti di informazione, spesso danno delle informazioni che si sovrappongono, quindi abbiamo dovuto poi incrociare i dati, e alcune motori di ricerca locali legati ai paesi, quindi all'Africa, al Mediterraneo, soprattutto Est, Medio Oriente, poi all'India e al Sud America. Abbiamo tenuto conto esclusivamente di articoli pubblicati, perché sostanzialmente tutti gli articoli pubblicati hanno una qualità paragonabile più o meno, mentre invece è molto difficile, un report del Ministero della Salute americano non è paragonabile per forza a un report del Ministero della Salute italiano o svedese, per motivi di qualità, per motivi di sostanzialmente non c'è una peer review, vengono pubblicati senza una peer review e quindi era molto difficile tenere conto. Quindi abbiamo utilizzato letteratura pubblicata, validata e riportata in questi motori di ricerca. Come lingue abbiamo tenuto conto dell'inglese, ovviamente tutte le lingue latine che in un modo o nell'altro riuscivamo a gestire, quindi l'italiano, lo spagnolo, il francese, il portoghese, e poi abbiamo tenuto conto anche del russo, chiedendo la collaborazione di una collega russa, perché la Russia è un paese molto importante in questo senso, che ha molti dati e che è andato incontro a un'epidemia tubercolare dovuta sostanzialmente al collasso della struttura sanitaria dell'Unione Sovietica, e quindi questa collega ci ha tradotto un certo numero di articoli che poi abbiamo utilizzato. In tutto abbiamo identificato 582 articoli che possibilmente ci interessavano. In realtà lo studio poi verte su 23 di questi articoli, perché sono quelli che davano informazioni nel modo in cui che potevamo utilizzare per fare delle analisi statistiche solide, insomma. Senti, allora effettivamente arriviamo al dunque. Quali sono i risultati a cui siete arrivati? Quante nazioni avete analizzato? C'è differenza tra nazione e nazione? E soprattutto quanto questa ricerca ci può dire che dobbiamo puntare la nostra attenzione proprio sullo studio dell'incidenza della tubercolosi in carcere per cercare di risolvere un problema così importante come l'insorgenza della tubercolosi nella popolazione mondiale? Allora, il dato più interessante di tutti e che noi abbiamo organizzato i dati in questo modo: abbiamo suddiviso i paesi in base essenzialmente al loro income, cioè al PIL, al prodotto interno lordo, Quindi abbiamo diviso, abbiamo i paesi ad alto PIL, prodotto interno lordo, e i paesi a basso medio prodotto interno lordo, per farci un'idea, nell'Israele, l'Italia, gli Stati Uniti, Hong Kong e via dicendo, mentre in quelli a medio basso income ci sono il Brasile, la Russia, la Costa d'Avorio e via dicendo. La cosa interessante è che il rischio, i soggetti in carcere rispetto al rischio di base della popolazione hanno un rischio aumentato esattamente uguale. Mi spiego, se in Italia un soggetto, 6 soggetti su 100.000 sviluppano la tubercolosi, i carcerati italiani avranno circa 26 volte il rischio più alto. Se per esempio in un altro paese 200 soggetti per 100.000 sviluppano tubercolosi, in questo paese i soggetti in carcere avranno anche qua 26 volte il rischio della popolazione locale. Il che vuol dire che il carcere sostanzialmente espone allo stesso rischio tutte le in cui si trovano. Il problema, la criticità di questo studio è che abbiamo osservato che i report che si sono trovati nei diversi paesi sono estremamente eterogenei tra di loro, cioè riportano dati diversi l'uno dall'altro, non danno tutti le stesse informazioni. Questo rende difficile la comparabilità degli studi tra i paesi. E quindi concludiamo l'articolo sostanzialmente chiedendo ai diversi ricercatori e agli organi competenti di consentire degli studi, di fare degli studi e di consentire che siano fatti tenendo conto delle stesse identiche informazioni, in modo tale da poter dare poi delle indicazioni globali, ad esempio come si può prevenire? Beh, migliorando la ventilazione, facendo all'ingresso in carcere o una lastra al torace oppure un test per l'infezione. Il problema è che non si sa ancora adesso esattamente quanta ce n'è di tubercolosi nelle carceri. Questo è un primo passo, diciamo. Jacopo, quindi alla luce di questo studio, quale consiglio ti sentiresti di dare all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in fondo ha spinto perché questo lavoro si svolgesse? Questo studio è stato promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tant'è vero che 3 autori sono dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi diciamo loro l'hanno presa molto a cuore questa cosa qua. Quello che io mi sentirei di consigliare, e sicuramente stanno facendo, è quello a questo punto di andare a parlare o a contattare quelli che si chiamano gli stakeholders, cioè le persone che hanno gli soggetti che hanno il potere di farlo, mostrando questi dati e segnalando che è necessario organizzare a livello nazionale, dei diversi programmi nazionali, dei sistemi di controllo, di monitoraggio e controllo della tubercolosi nelle carceri. In alcuni paesi sarà più facilmente fattibile, il problema sono sempre le risorse, in altri paesi sarà da negoziare in maniera molto seria, molto tosta, perché diversi paesi non ammettono assolutamente che personale non carcerario entri nelle loro carceri, però adesso per la prima volta ci sono dei numeri sostanzialmente, ci sono quelle che sono chiamate delle prove scientifiche, che è un problema di cui tenere conto. Prima tutti lo sapevano, ma nessuno aveva i numeri per andare a negoziare, adesso abbiamo i numeri per andare a negoziare. Jacopo, a questo punto ci fermiamo per un minuto, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo musicale, poi torniamo in studio e l'ultima domanda che ti farò è la domanda classica zainetto. A dopo. Grande Giove. And cars are dancing. I'd like to ask you, but my legs are shaking. Now you know. E siamo nell'ultima parte di Cacciafotone, siamo sempre in compagnia col dottor Jacopo Bolzano, ricercatore presso l'Università del Piemonte Orientale, ma soprattutto primo autore di un paper pubblicato su PLOS Medicine, in cui si analizza l'incidenza della tubercolosi in prigione. Jacopo, l'ultima domanda che ti voglio fare è la classica domanda zainetto. Quale delle tante cose che hai vissuto durante questa ricerca metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per portartela nelle prossime ricerche? Insomma, quale delle tante cose salveresti e conserveresti per la tua carriera? Questa è una domanda... Forse l'ultima figura che abbiamo fatto, dove cerchiamo di mettere in relazione quello che è il rischio, quello che spiegavo prima, no? Il fatto che ovunque si vada sia 26 volte il rischio che della popolazione di base di avere la malattia, è un dato freddo, ma se noi questo rischio lo applichiamo a tutta la popolazione, cioè sappiamo quanta gente per esempio finisce in carcere in Russia piuttosto che negli Stati Uniti o in Italia, abbiamo un'idea quantitativa immediata di quanta gente è a rischio di questa infezione, di questa malattia, e viene fuori che il fatto di avere le carceri così organizzate, non di avere le carceri in sé, ma diciamo che non si controlli la tubercolosi nelle carceri, rende ragione dell'8,5-6,3% di tutte le tubercolosi, è un numero enorme. Allora, con questa tua risposta si conclude la 186esima puntata di Cacciafotone. Mi scuso con gli ascoltatori per questa voce nasale, per un raffreddore che purtroppo tarda ad andarsene, speriamo che se ne vada presto. L'appuntamento è per tutti voi alla settimana prossima, sempre su Caccia al Fotone, e l'augurio e il classico buona scienza a tutti. Grazie Jacopo. Grazie a voi. Ehi, con chi stai parlando? Dici a me?